Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Il rapporto tra il mondo bancario e le imprese, soprattutto le piccole e medie imprese. Perché? Perché c'è stato un incontro oggi alla Banca d'Italia, convocate le maggiori banche italiane. In realtà l'incontro verteva anche su altri temi, capire come le banche si muoveranno dopo le indicazioni dell'EBA, indicazioni folli a mio avviso. L'autorità bancaria europea ha chiesto a tutte le banche, sia che siano banche d'affari che siano banche commerciali, di aumentare i criteri patrimoniali, creando un danno alle banche italiane più che a altre banche che guadagnano, per dirla brutalmente, dal trading, dalla compravendita dei titoli, derivati, certificati. Le banche italiane storicamente sono sempre state più orientate all'attività tradizionale, ebbene vengono punite come le altre, con la conseguenza che chiedere aumenti di capitale in questo periodo significa drenare soldi. Quando tu fai un aumento di capitale devi chiedere soldi, come vediamo nel caso di Unicredito, devi chiedere soldi sul mercato, e questo era l'obiettivo formale del vertice. Ma un altro obiettivo era capire come le banche italiane stiano utilizzando i 114 miliardi di euro che hanno ottenuto come prestito dalla Banca Centrale Europea all'interno di quel maxi prestito da 489 miliardi di euro che la Banca Centrale ha dato a tutte le banche dell'area euro. È un maxi prestito con un tasso di interesse all'1% per 3 anni. Serviva e serve in primo luogo alle banche per risolvere i problemi di liquidità, ossia spesso comprarsi o ricomprarsi le obbligazioni emesse, ma aveva come obiettivo, non sfugge a nessuno, anche di rendere più facile, sempre all'interno della sana e prudente gestione, l'erogazione di credito dalle banche verso le imprese oltre che i cittadini. Mi sembra che su questo punto sia tutto ancora fermo, tant'è che oggi c'è un dato che porta il tema a essere di estrema attualità. Beh, la Banca Centrale Europea ha fatto sapere che è a record il deposito dei titoli, quanto le banche europee hanno depositato nell'overnight, cioè il deposito, cioè metti i soldi di notte e li ritiri la mattina. 501 miliardi di euro depositati ieri. Ora, è chiaro che se le banche europee hanno preso i soldi dalla Banca Centrale Europea con questo prestito agevolato per poi rimetterli sul conto corrente della Banca Centrale Europea di notte e guadagnarci qualche decimale perché non sanno come impiegarli, perché non si fidano a impiegarli verso le imprese o verso i cittadini, così non ci siamo, perché insomma siamo capaci tutti, o peggio ancora se si mettono a comprare banalmente obbligazioni di Stato guadagnando sugli alti rendimenti dovuti agli spread. Insomma, prima o poi, con la massima prudente gestione, la banca deve tornare a prestare soldi a chi ha progetti, a chi è affidabile. Ci risultano notizie, ma ne parleremo, invece di banche che hanno chiamato molti clienti dicendo: guardate che per l'anno 2012 i giochi sono già fatti, non ci sta un euro. E questo è il tema che affronteremo nella seconda parte del programma con un ospite che noi abbiamo chiamato ormai quasi un indice, Piccinelli. È un imprenditore che ci chiamò con una telefonata disperata, lo ricorderete, alla metà del 2009, non riusciva ad andare avanti, si era spento l'interruttore, poi lo risentimmo a fine 2009 quando c'erano i primi segnali di ripresa, lo risentiamo oggi perché è il classico piccolissimo imprenditore, ha 15 dipendenti, esporta in 40 paesi. È la fotografia, ecco perché lo chiamo indice Piccinelli, di quello che è l'attività delle piccole imprese italiane. In apertura invece le agenzie di rating, di nuovo la proposta che è stata avanzata all'Europarlamento per riformare il ruolo delle agenzie di rating che danno i voti ai paesi in Europa. Anche su questo fronte oggi ci sono novità e partiamo subito con le notizie in breve. 349-238-6666 per i vostri sms. L'oro, allora, anzi, partiamo dalla borsa, più 0,36%, meglio ancora Parigi, più 1,15%, Francoforte più 1,70%, Londra mezzo punto percentuale, l'America ieri chiuso per festività, oggi guadagna l'1%. La cosa interessante è che anche l'euro è in rafforzamento a 1,2740 e di nuovo le borse, i mercati ignorano, come hanno fatto ieri, hanno ignorato sostanzialmente Standard & Poor's e l'abbassamento di rating. Oggi hanno ignorato l'allarme di Mario Draghi, che ha detto la situazione è drammatica, il presidente della Banca Centrale Europea ieri da Strasburgo, e hanno ignorato anche, non so, l'uscita di oggi di Fitch, che sostanzialmente, adesso ne parleremo, ha declassato le grandi aziende pubbliche francesi, ieri Standard & Poor's ha tagliato il voto al Fondo Europeo di Salvataggio. Ha detto che Fitch ha detto che anche l'Italia potrebbe avere un taglio del suo voto, ha detto che la Grecia è insolvente, sarà in fallimento, ma insomma le borse hanno ignorato la cosa. Secondo me il segnale va guardato con attenzione senza esagerare, ma soprattutto anche gli spread non hanno seguito il segnale, nel senso che si sono abbassati. Nel caso specifico, il BTP italiano a 10 anni è sceso sotto i 470, viaggia intorno a 465 punti base, giù anche lo spread francese 121, spagnolo 330, belgio 229 e anche il Portogallo, che però ieri è andato a record a 1238. Questa è la differenza tra quanto costa noi sottoscrivere debito a 10 anni, BTP a 10 anni, emettere, scusatemi, debito a 10 anni rispetto a quanto non costi la Germania. Però, insomma, sì, forse ha ragione un ascoltatore che scrive ormai siamo vaccinati a tutte le guffate. Non lo so, c'è una resistenza positiva, a meno che non sia una trappola per il parco buoi, come scrive qualcun altro. C'è una resistenza positiva alle notizie che stanno arrivando, non, potrebbe essere un segnale di un cambiamento di tendenza. In altri mesi, in altre settimane, di fronte a Standard & Poor's di venerdì, Draghi di ieri, Fitch di oggi, avremmo avuto un mercato tutto ribassista che andava a vendere su tutto. C'è chi mi chiede perché non ammette che salvare la Grecia è stata una colossale cavolata, che serviva solo a buttare soldi nel bagno. No, non la penso così, intanto perché la Grecia non è stata salvata, anzi è stato chiesto di ristrutturare il debito. No, il ragionamento è un altro, è chiaro che la controstoria è sempre un esercizio difficile, ma cosa sarebbe successo se a marzo, aprile del 2010, invece che dire la Grecia deve fallire, deve pagare per i suoi errori, ci fossimo accollati come area euro l'allora debito greco in scadenza e avessimo tagliato la testa al toro, poi bastonando i greci, obbligandoli a politica, ma intanto salvandola, invece di dimostrare che c'era la Germania virtuosa, la Francia che voleva fare la Germania, l'Italia che non aveva voce in capitolo, un'Europa in ordine sparso? Questa è la domanda. Io penso che sarebbe servito, avremmo pagato qualche centinaia di miliardi di euro, ma non avremmo avuto 1.400 miliardi di svalutazione in borsa, nelle borse europee, come è avvenuto in questo anno e mezzo. Altra notizia che riguarda, alcuni di voi lo ricorderanno, il Baltic Dry Index, l'indice che misura il costo dei trasporti cargo, quindi dei trasporti via mare. È un indice importante perché più sale questo indice, più vuol dire che è costoso trasportare merci attraverso il cargo e perché l'economia è ripartita, c'è più domanda. Ricorderete che ha toccato il minimo storico il 5 dicembre del 2008, dopo che viaggiava nel 2008 a 12.000 punti, crollò a 660 punti, quando c'erano le navi cargo ferme davanti al porto d'Anversa e altri porti, Rotterdam, perché non preferivano stare al largo piuttosto che pagare i diritti di scarico. Era risalito, purtroppo oggi è sceso ai livelli più bassi del gennaio 2009, quindi l'indice che misura il costo per trasportare merci è sceso a 1013 punti. Pensate che solo a ottobre ne valeva 2000, e questo è un indice effettivo, cioè misura il prezzo delle principali rotte cargo e compone un indice. Vuol dire che si è rifermata l'attività economica di Riffo, di Raffa, poi questo è. Anche la Cina ha rallentato nel 2011, più 9,2% il PIL contro il 10,4% del 2010, ma per la prima volta nella storia della Cina l'anno scorso il numero di abitanti delle città ha superato quelli delle campagne. È un dato demografico, sociodemografico enorme: 690 milioni gli abitanti in città contro 656 milioni quelli delle campagne. Un ultimo dato, poi parliamo delle agenzie di rating. Mercato auto, immatricolazioni meno 1,4% nel 2011, meno 6% a dicembre. Il dato in Italia è meno 11%, bene la Germania, più 8,8%, abbastanza bene la Francia, solo meno 2%, la Spagna è un crollo, meno 17%, e però la Fiat perde più della media del settore, è meno 12% nel 2011, è meno 15,5% a dicembre. Volkswagen invece bene, più 8%, Peugeot, Citroën meno 8%, Renault meno 8%, Ford meno 3%, BMW più 7%. Ancora l'ultima notizia che riguarda la crisi raccontata da altre angolature. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Addio auto blu per molti ministri, non sottosegretario, del governo britannico, dal numero uno del Foreign Office, cioè dal ministro degli esteri britannico, William Hague, al responsabile della sanità, Andrew Lansley. Molti ministri del governo Cameron dovranno rinunciare alla macchina con autista. Praticamente il Dipartimento dei Trasporti ha annunciato un taglio da 6,7 a 38 milioni di sterline del bilancio delle auto di Stato. Sette ministeri, compreso gli esteri, sanità e cambiamento climatico. Tutti i membri del governo, questa andrebbe girata all'Italia, sono stati incoraggiati a usare dove possibile i mezzi di trasporto pubblici, nemmeno i taxi, i mezzi di trasporto pubblici. Praticamente il numero di ministri e altri funzionari in Gran Bretagna che a questo punto potrà usare l'auto blu con autista è sceso da 78 a 13. Potrà usare un pool di macchine ministeriali a patto che l'autista serva per ragioni di ufficio e che lo spostamento da casa al lavoro sia molto distante da Londra, se no prendi la metropolitana. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. E poi una nota, vedo moltissimi messaggi sulle dichiarazioni dei redditi, ieri avevamo anticipato quelle di tassisti e altri. Dichiarazioni dei redditi netti legati all'attività degli studi di settore, imposta 2009. Al di là dei tassisti, per carità, e degli orefici, ci sono altre voci che mi hanno fatto impressione. Anche gli studi legali a 46.000 euro netti l'anno, secondo me un po' poco. I dentisti a 45.000 euro netti l'anno, è un po' pochino, conoscendo l'attività dei dentisti. E poi i bar e le gelaterie, capisco che alcuni bar siano, ma insomma 15.000 euro netti l'anno, 15.800 euro netti l'anno. I negozi alimentari 14.000 euro, dei tassisti 14.000 euro, abbiamo già detto. I gioiellieri e gli orologiai 13.000 euro netti l'anno, qui stiamo parlando di 11.100-11.200 euro netti al mese, spesso meno dei loro dipendenti. E poi i ristoranti 13.000 euro netti l'anno, ristoranti, e gli alberghi 13.300 euro netti il guadagno all'anno di un albergatore. Ma io dico, ce ne rendiamo conto? E poi gli stabilimenti balneari, che tanto avevano protestato per le licenze. Chi va e utilizza uno stabilimento balneare sa che nella maggior parte dei casi non è un lavoro così misero, anche perché si lavora qualche mese l'anno. Ebbene, dichiarano 11.000 euro netti l'anno. Chiudiamo con il commercio al dettaglio, abbigliamento, calzature, pelletterie, accessori, e qui siamo veramente alla soglia di povertà. 7.000 euro netti l'anno per chi ha un negozio di abbigliamento in media. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Nel frattempo le agenzie di rating non mollo il tema, ripeto, nessuno dà la colpa al medico se diagnostica una malattia, si può però dubitare o chiedere al medico come mai ti svegli adesso, come mai nel caso dell'Italia mi dai due scalini di calo nel voto sul rating all'improvviso venerdì mentre l'obiettivo doveva essere la Francia, che cosa è cambiato rispetto a 2 o 3 mesi fa e come formuli il tuo giudizio, tutto qui, perché se io scopro che il medico che mi prescrive un medicinale è azionista di quella casa farmaceutica, abbiate pazienza, il dubbio c'è, e siccome gli azionisti delle agenzie di rating sono tutti fondi comuni di investimento, Moody's e Standard & Poor's soprattutto, e il dubbio c'è. Però siamo anche noi artefici del nostro male, cioè gli accordi di Basilea 2 e Basilea 3 impongono alle banche di utilizzare moltissimo il voto dell'agenzia di rating per stabilire la qualità dei loro crediti, e quindi siamo anche noi forse che diamo troppa importanza. Barack Obama, quando ha perso la AAA, ha subito cambiato le regole, lo raccontavamo anche ieri. C'è una proposta di legge in discussione al Parlamento europeo e ne parliamo con chi è il primo relatore, e mi riferisco all'ex sindaco di Firenze, attualmente onorevole Leonardo Domenici. Buonasera. Buonasera a voi. Del PD, mi dica che cosa volete ottenere, perché i temi sono elencati, sono i soliti, cioè tu sei un privato, giustamente mi dai una valutazione e ci mancherebbe, il problema è poi quanto pesa la tua valutazione, come viene formulata la tua valutazione e che effetti ha, perché se io dico che secondo me la Grecia è fallita, qualcuno sorride ed è morta lì, se lo dice, se fossi un analista di Standard & Poor's avremmo effetti sul mercato. Più trasparenza e più concorrenza, come? Sì, chiariamo anzitutto quello che è il nostro lavoro come Parlamento. Noi interveniamo su una proposta di revisione del regolamento che è stata emanata dalla Commissione europea, e per la verità che la questione sia piuttosto complessa, delicata e difficile trovare delle proposte è dimostrato dal fatto che c'è stato un primo regolamento della Commissione europea sulle agenzie di rating nel novembre del 2009, ne è stata fatta una prima revisione nel maggio del 2011 e adesso, novembre 2011, siamo ad una ulteriore stretta, ad un ulteriore tentativo di intervento. Perché? Perché si è visto che le prime due versioni della regolamentazione sostanzialmente non intervenivano in maniera efficace su alcune questioni che sono decisive. L'eccessivo affidamento ai rating da parte dei mercati finanziari, io ho sentito quello che diceva lei introducendo la trasmissione, è perfettamente vero, chi è causa del suo male, perché la prima cosa che dobbiamo fare è rivedere e cambiare la normativa esistente, perché è quella che ha dato troppo potere alle agenzie di rating. In secondo luogo, la possibilità di introdurre la responsabilità civile delle agenzie di rating nei confronti degli investitori, un intervento più efficace sui conflitti di interesse che derivano dal cosiddetto modello issuer-based, cioè è l'emittente che paga colui che fa il rating. E questo sì, sono io che pago l'agenzia, nel senso che chiamo Standard & Poor's o Moody's e dico vorrei un tuo voto sul mio debito. Esatto. È chiaro che anche qui, un po' come avviene per certi negozi, se tu sei un cliente frequente o che paga tanto, potresti avere, diciamo, un trattamento di riguardo. Ecco. Esattamente. E per finire rapidamente altri due punti: la questione della struttura azionaria delle agenzie di rating, perché anche lì abbiamo il problema del conflitto di interesse e la necessità di dare maggiore trasparenza alle metodologie utilizzate. E poi quella che io personalmente ritengo la questione chiave in questo momento, la peculiarità, la particolarità dei rating sui debiti sovrani, e io credo che queste vadano affrontate in maniera particolare, già ci sono delle proposte nella revisione del regolamento da parte della Commissione, ma io credo che su questo tema del rating dei debiti sovrani il Parlamento dovrà intervenire in modo più stringente con proprie proposte. Perché, allora, lei dice sì alla trasparenza nel metodo che utilizzano, sì alla responsabilità civile, e questo è un tema delicatissimo, perché insomma è chiaro che se tu poi dai un voto sbagliato, poniamo il caso di Lehman Brothers o di Parmalat, a me dispiace che si sia sbagliata Standard & Poor's, però ha fatto un errore macchiano, Esatto. Tripla A a Standard & Poor's, voto ancora investment grade su Parmalat. Ho capito, ha truccato i conti, ho capito, ma tu se non hai fonti in più rispetto alle mie, che ci fai a fare l'agenzia di rating? Abbi pazienza. Esatto. E più concorrenza. Lei diceva anche un diverso trattamento quando, io devo dire che sono abbastanza d'accordo su questo, quando si vanno a valutare gli stati, perché un conto è dire Sebastiano Barisoni, la SPA ha un debito che io valuto tripla B, esatto, e poi si arrangia lui. È un conto è declassare l'intero paese di due scalini, creando poi tutta una conseguenza sulle banche di quel paese, non solo che hanno BOT e BTP di quel paese, perché si trovano con una qualità peggiore, diciamo, dell'investimento. Esattamente, se io devo valutare quella che è una realtà statuale che riguarda milioni e milioni di persone in maniera diretta o indiretta, è evidente che noi non possiamo assolutamente permettere che ci siano manovre poco trasparenti, tentativi di speculazione. Faccio un esempio concreto. Se noi leggiamo il testo del comunicato di Standard & Poor's che ha portato al downgrade di molti paesi dell'area euro, compreso il nostro, bisogna dire che alcuni elementi di analisi sono condivisibili. Ah beh, ci mancherebbe, no? Vuol dire che noi abbiamo un debito al 119%, che lo spread sia peggiorato da, esatto, giugno. No, ma io guardi, dico anche alcune considerazioni critiche sul modo in cui si è mossa l'Europa per rispondere a questa crisi del debito sovrano e così via. La domanda è: perché me lo fai adesso, in questo momento, con queste modalità e per quali finalità? E io credo che questo sia uno dei punti cruciali. Noi dobbiamo dare regole diverse, una proposta in questo senso è già contenuta nella revisione avanzata dalla Commissione europea, per cui dobbiamo prima di tutto obbligare a comunicare in maniera più trasparente la metodologia, chiedere che ci siano rating più frequenti e dare poi i cosiddetti pre-warning, cioè gli avvertimenti precedenti, sì, soprattutto, ecco, quando si tratta di rating cosiddetti unsolicited, cioè quelli che non sono sollecitati, perché ricordiamoci che in molti casi è vero. I rating dei paesi e del debito sovrano vengono effettivamente fatti e comunicati unilateralmente. Alcune volte richiesti, altre volte no. Esatto. Allora, nessuno sta dando la responsabilità alle agenzie di rating, fanno il proprio mestiere, ripeto per la volta numero 20, è giusto che lo facciano, sono dei soggetti privati, svolgono il loro ruolo. Il problema è come viene utilizzato questo giudizio. Esatto. Uno, perché se poi per accordi, per regolamenti, tu sei obbligato a tenerne conto, non è più uno che fa il suo lavoro e dà il suo giudizio, hai il ruolo di ente certificatore. Ecco, io ritengo sempre che a fare la certificazione non dovrebbe essere un privato, dovrebbe essere un'istituzione internazionale, Fondo Monetario, Commissione Europea, Banca Centrale. Mi fido di più, perché abbiate pazienza, quando poi uno dentro c'ha i fondi americani, da Warren Buffett ai più grandi fondi di investimento, il dubbio che poi qualcuno lo sappia prima, che vi possa essere interesse, magari ribassista sull'Europa. Secondo aspetto è il tempismo. Sono d'accordo con lei, i problemi l'Italia ce li ha tutti, e lo vediamo tutti i giorni con lo spread e quant'altro, ce l'ha la Spagna e quant'altro. Però che tu te ne esca con non l'abbassamento alla Francia che era già stato annunciato, ma due gradini sull'Italia, e nel giorno in cui i mercati stavano recuperando, giovedì e venerdì, in borsa lo spread calava, obiettivamente allora potevi farlo a luglio, potevi farlo a settembre, se mi permette, viene il sospetto che effettivamente qualcuno abbia posizioni ribassiste, investito, certo, esatto, sul ribasso, sulle posizioni corte, che ci sia stata una scommessa sull'indebolimento dell'euro e che questa ci fosse rimasto male perché l'euro invece non si indeboliva. Ecco, allora dice diamogli una bottarella in più, così vediamo che cosa, ecco, succede. Domenico, però per dare a Cesare quel che è di Cesare, voi quando è che andrete a provare queste nuove regole per agenzie, cioè mettere a votazione? Lei tocca qui un tasto dolente. Ho capito, però è quello che dovete fare voi. No, ha perfettamente ragione. Uno dei problemi delle istituzioni europee, spesso dipende anche da fattori oggettivi, è quello di una eccessiva lentezza nei processi decisionali. Per quanto riguarda il Parlamento europeo, noi ci siamo fatti una roadmap, una strada, diciamo, che ci porterebbe a votare questo provvedimento prima della pausa estiva, fra giugno e luglio, in assemblea plenaria. Prima non si riesce, È molto difficile, non tanto per la discussione che dobbiamo fare in Parlamento, perché questo processo decisionale a livello europeo è l'intersezione di ciò che propone la Commissione, ciò che propone di emendare e modificare il Parlamento e soprattutto, ahimè, ciò che propone di fare il Consiglio, cioè i governi. Ecco, capito, anche lì se il mondo cambia per tutti, cambia anche per voi, nel senso... Prevedo che ci saranno non pochi problemi, per la verità. Ah beh, diciamo, la capacità di lobby delle agenzie di rating può essere anche molto interessante. Grazie e speriamo che vi diate, io non so, perché prima dell'estate, dopo l'estate, speriamo poi che ci sia l'euro, a questo punto anche l'Europarlamento, dico come battuta. Comunque, grazie all'onorevole Leonardo Domenici. Sia tutto questo, sì. E speriamo. La situazione è quella che è, però bisogna lavorare. Senta, ascolti questo passaggio di un film che abbiamo presentato in tempi non sospetti, a molti è piaciuto, mi scrivete su questo, si chiama Inside Job. È la spiegazione bellissima di come si è arrivati al delirio di onnipotenza della finanza del 2008 ed è la ricostruzione, diciamo, delle testimonianze davanti al congresso americano dei dirigenti di Moody's e Standard & Poor's. Le tre agenzie di rating Moody's, Standard & Poor's e Fitch guadagnarono miliardi dando il massimo dei voti a titoli rischiosi. Moody's, la più grande agenzia di rating, quadruplicò i suoi profitti tra il 2002 e il 2007. La Moody's e la Standard & Poor's venivano ricompensate sulle basi dei rating che davano e più AAA davano, più alti erano i guadagni per la società. Immaginate di andare al New York Times e di dire: se mi scrivete un articolo positivo vi pago $500,000, se non lo fate non vi do niente. Le agenzie di rating avrebbero potuto interrompere la festa e dire: ci dispiace, dovremmo alzare i nostri standard e tagliare immediatamente il flusso di finanziamenti verso mutuatari rischiosi. Gli strumenti valutati con la AAA passarono da una manciata a migliaia e migliaia. Centinaia di miliardi di dollari venivano valutati... Ogni anno? Ogni anno, sì. Ho testimoniato di fronte al Congresso e alla Camera dei rappresentanti sul problema delle agenzie di rating. Ed entrambe le volte i loro avvocati hanno tirato in ballo il primo emendamento rivendicando il fatto che il loro giudizio di AAA era solo la loro opinione e che le persone non dovevano basarsi solo su di essa. I rating esprimono un'opinione. I nostri rating sono la nostra opinione. Opinioni. Opinioni non sono altro che opinioni. Credo che abbiamo enfatizzato il fatto che i nostri rating sono opinioni. È un po' comoda così, quando le cose buttano male hai detto opinioni e quando invece però c'è da abbattere il valore dei titoli o quello che metti a bilancio diventi Dio come Standard & Poor's. Domenici, un motivo in più, se non l'ha visto, per vedere questo film Inside Job e per andare a far fretta con questa riforma delle agenzie di rating. Grazie di nuovo, meteo, pubblicità, poi la borsa più 0,70% e poi il rapporto piccole imprese e mondo bancario. I soldi qua non stanno uscendo. minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni, commentiamo la borsa e poi iniziamo a parlare di credito alle imprese. Vedo molti messaggi, una battuta sulle agenzie di rating: rispettiamo il lavoro di tutti, però non c'è nessuno di intoccabile a sto mondo. E allora, quello che abbiamo fatto sentire nel passaggio del film Inside Job, dal 2002 al 2006 quadruplicano gli utili delle agenzie di rating. Allora, questo impossibile che non si siano accorti di nulla, dei mutui che venivano concessi e dei prezzi concessi a chi non poteva ripagarli, per favore, facevano parte del sistema anche loro, non ci sono demi-vierge, come dicono in francese, mezze vergini. Oh, la marginalità non è un problema di centimetri, come dicono in Italia, la borsa. Più 0,70% Milano, quindi risposta anche oggi contraria alle indicazioni arrivate da Fitch che dice la Grecia è fallita, potremmo abbassare il voto sul debito dell'Italia e anche l'allarme di Mario Draghi di ieri. I mercati continuano a muoversi in un'altra dimensione, più 1,40% Parigi, più 1,80% Francoforte, più 0,60% Londra, più 1% l'America, l'euro in recupero 1,27,47. Partirei da qui con i colleghi di Radio Corriere sulle 24 ore, Livia Zancanelli, buonasera. Buonasera. Insomma, tutte le borse ignorano dati e indicazioni, però ci sono anche i conti di Citigroup oggi. Stranamente delude l'utile, ma c'è. Sì, allora bisogna dire che oggi le borse quindi hanno guardato più i fondamentali dell'economia rispetto ai giudizi delle agenzie di rating, nel senso che questa mattina sono arrivate notizie positive dall'economia cinese, anche dall'indice ZEV tedesco, quindi due fattori che hanno sostenuto le borse europee. Milano aveva frenato in realtà nel pomeriggio, penalizzata dall'andamento delle banche, appunto dopo i conti di Citigroup. Ricordiamo che le banche in Italia realizzano la maggior parte della capitalizzazione, poi la borsa milanese si è risollevata nel finale di seduta e ha guadagnato quindi lo 0,69%. Ok, andiamo avanti con i titoli. Più 2,80% Unicredit Enel, più 2,40% Parmat pure, più 2,20% Prismian, più 2% Fiat, Terna più 1,70% come Buzzi Unici e Medeni, Pirelli più 1,5%, Impregilo più 1,30%, Autogrill più 0,90%, bene anche Saipem più 0,70%. Chi perde? Popolare Emilia Romagna meno 2,70%, Mediaset meno 2,40%, Mediolanum pure, Popolare Milano meno 2%, Tods meno 1,70%, Diasori meno 1,5%, Mediobanca perde l'1,1% come Telecom Italia e Luxottica e Campari perdono l'1%, Monte dei Paschi meno 0,76%. Facciamo Unicredit, Enel, Eni e poi vediamo cosa resta. Sì, allora per quanto riguarda Unicredit ha realizzato la migliore performance nel comparto bancario. A Milano è sempre in corso l'aumento di capitale da 7,5 miliardi, ma oggi vi è un'altra notizia, nel senso che il fondo di Abu Dhabi, Abar, che è azionista con il 4,99%, ha comunicato di voler salire al 6,5%, quindi questo ha focalizzato oggi gli acquisti sul titolo, che quindi ha terminato la seduta in rialzo del 2,80% con scambi pari all'8,5% del capitale. Per quanto riguarda Eni ed Eni, allora la prima è sotto i riflettori perché è tornato d'attualità il tema della possibile separazione proprietaria da Snam Rete Gas, che potrebbe essere reinserita nel decreto liberalizzazione in approvazione venerdì. Invece per quanto riguarda Enel, la notizia risale a ieri e vi sono delle indicazioni positive emerse dalla conference call sugli impatti delle nuove tariffe sulla distribuzione elettrica. La società ha infatti quantificato in circa 200 milioni a livello di EBITDA, quindi di margine operativo lordo, l'impatto positivo da queste tariffe, quindi il titolo ne ha beneficiato. In borsa ha guadagnato il 2,37%. E poi Fiat bene nonostante le immatricolazioni europee, Mediaset e anche RCS non bene, Mediaset meno 2,40%, qui ci sono timori sulla raccolta pubblicitaria, soprattutto per Mediaset, i migliori peggiori in assoluto: Aeroporto di Firenze meno 6,60%, Sintesi meno 5,80%, Bialetti meno 5,70%, il migliore Gefran più 10%, Prima Industria più 7,70%, Valsoia più 6,50%, Brioschi più 5,14%. Grazie a Livia Zancanera, Radio Corriere Sole 24 Ore, traffico. Di nuovo in diretta, dicevamo, un rapporto banche-imprese, visto che oggi c'è stato l'incontro alla Banca d'Italia con le principali banche italiane, in cui si parlava di vari temi. Iniziamo in maniera un po' più leggera, visto che rapporto banca-impresa, piccola impresa soprattutto, è un rapporto delicatissimo. Tu mi turbi, Roberto Benigni, 1983, Roberto Benigni va in banca e chiede un prestito. È venuto qui, non ha soldi investiti, non ha titoli, non ha bot, non ha niente, e vuole 100 milioni e pretende che noi glieli diamo? Dettone! Lei non mi vuole dare 100 milioni! Ma lei va a contare il nostro nome, dottor Dio t'aiuti! Lei si contraddice! No, non ho niente! Certo che non ho niente, vengo a chiedere 100 milioni! Perché se avessi un miliardo me li darebbe 100 milioni? Certo! Certo! Ah sì, eh? Certo! Ma se avessi un miliardo, glieli darei io a lei 100 milioni! 200! Tenga, 300 milioni! Qui! Tenga, non li voglio neanche, me ne resta 700. Grazie tante. Non li voglio, li mette in tasca. Non li voglio, li mette in tasca. Se c'ho un miliardo mi dà 100 milioni. Allora, se io ho bisogno di una melanzana, devo andare dall'ortolano, devo avere un miliardo di melanzane a casa? Non me l'ha mai detto l'ortolano, ce l'ha lei un miliardo di melanzane? Mai! Né di pesche, di quello che c'ho bisogno. Direttore! Ma dove siamo arrivati? Sì, sorridiamo anche perché il tema è serissimo. Molti imprenditori, oltre che privati cittadini, quando vanno in banca vivono un po' questo paradosso che a mio avviso Benigni bene ha illustrato, appunto, ripeto, era Tumi Turbi del 1983. Gli si chiedono le garanzie e allora la banca ha ragione a chiedere le garanzie. Le banche, lo dico subito, hanno dati sulle sofferenze in aumento, nel senso che le sofferenze sono i prestiti mai rimborsati, però il tasso di crescita di queste sofferenze è altissimo, è al 22%, e questo è il fronte bancario. D'altra parte però è innegabile la stretta nei prestiti bancari, il dato della Banca d'Italia, verso le imprese oltre che verso i privati, le famiglie. Si è passati da ottobre e agosto, in cui si viaggiava tra il 5 e il 5,3%, a un 4,4% nel mese di novembre come prestiti alle imprese. Ora, dal 5,3 al 4,4% significa un calo di quasi 20% rispetto ai finanziamenti alle imprese. Siamo tornati a un livello che ricorda molto da vicino quello di aprile e di gennaio. Ancora peggio il calo costante dei prestiti, delle variazioni percentuali sui prestiti alle famiglie. Comunque, siamo in collegamento con chi ha la delega in Confindustria per il credito, la finanza, le piccole e medie imprese, nonché presidente della piccola industria e di Confindustria, vicepresidente di Confindustria, Vincenzo Boccia. Buonasera e buon anno. Buonasera a lei, buon anno a lei. Dica la verità, un po' i suoi associati, quello che racconta Benigni in maniera più forbita, più articolata, no? Lo sostengono. Questa appartiene un po' alla storia del paese. C'è un'altra domanda che gira, diciamo, da tempo: se Bill Gates fosse nato in Italia, se oggi era un depresso, sarebbe diventato quello che è diventato negli Stati Uniti d'America, perché abbiamo un approccio, diciamo, al credito un po' troppo ordinario e storico, diciamo, legato al patrimonio e non al rischio. Al rischio. Quindi restava Roberto Cancelli e non Bill Gates. Però veniamo poi ai tassi. I tassi praticati alle imprese sono saliti su base annua, sempre novembre, dal 3,7 al 3,8%. Lascio stare oggi i mutui perché vorrei riferirmi soprattutto alle piccole e medie imprese. C'è un elemento che so che agita molto i suoi associati e in generale i piccoli e medi imprenditori. Lo scorso 21 dicembre la Banca Centrale Europea ha messo a disposizione oltre 440 miliardi di euro per le banche europee, con un tasso agevolato dell'1% per 3 anni, 489 miliardi per la precisione. Le banche italiane ne hanno sottoscritti di questi 489 una fetta importante, 116 miliardi, che vuol dire avere liquidità per 116 miliardi con un tasso dell'1% per 3 anni. Sappiamo tutti che servivano in primo luogo le banche per ricomprarsi le loro obbligazioni, corporate bond, e per non avere problemi di liquidità. Ma lei riceve richieste se e quando questi soldi che la BCE ha messo sul tappeto verranno poi rigirati alle imprese? Beh, sicuramente è una domanda che arriva da molti punti, anche perché il credito è diventato più selettivo e più costoso ai noi in questi mesi, per una serie di considerazioni legate sicuramente alla crisi dei debiti sovrani e quindi al famoso spread alto che è arrivato ai noi anche all'economia reale. L'altra questione è appunto questa liquidità che la BCE ha messo in giro, se riesce ad arrivare all'economia reale. A noi risulta, diciamo, una selettività del credito e quindi un irrigidimento, emergeva anche dai dati che ha dato lei, e non un'apertura. È vero che c'è una dimensione di ansietà nell'economia e c'è anche una questione, come dire, di potenziali crediti in sofferenza in questi istituti bancari, però è anche vero che alcuni aspetti indicati dall'autorità bancaria europea, l'EBA, come anche Basilea 3, non fanno altro che andare in una dimensione prociclica, che è esattamente l'inverso che ci vorrebbe in politica economica. Quindi due questioni: un'attenzione maggiore alle imprese, chiaramente non chiediamo soldi gratis e assistenza, ma capire quali sono le evoluzioni del futuro in queste imprese, con parametri anche qualitativi che abbiamo chiesto da parecchio e non solo quantitativi, perché se perdiamo di vista gli effetti effetti sull'economia reale delle scelte che si fanno in termini finanziari, entriamo in una dimensione di non ritorno che non aiuta nessuno. Allora, adesso ho il GR, poi però vorrei capire che proposte concrete immaginate, una seconda moratoria o che cosa, e anche capire però, dare conto della posizione delle banche che dicono attenzione, sono le imprese che non ci chiedono soldi molto spesso in questo periodo, o se ci richiedono non è per grandi investimenti ma per pagare gli stipendi, quindi non con un grande progetto. Ne riparliamo, Presidente Boccia, dopo il GR, poi anche con l'indice Piccinelli. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora vorrei continuare, concludere l'intervista al presidente della piccola industria Confindustria, nonché vicepresidente e colui che ha la delega nel rapporto credito con tra imprese e banche. Davamo i dati, visto che oggi c'è stato l'incontro in Banca d'Italia, dati che sono netti, c'è stata una restrizione del credito concesso dalle banche alle imprese a novembre su ottobre, anche alle famiglie. E c'è però, mi faccio difendere le banche in questo caso, dicono spesso, attenzione, sono le piccole imprese in molti casi che non chiedono soldi o perché non hanno un progetto, hanno incertezze sul futuro, se li chiedono per cose di partita corrente, per pagare gli stipendi. E allora non vorrei finire nel ping pong, diciamo, tra quello che dicono le banche e quello che dicono le imprese. C'è un modo per trovare, capito, un punto di caduta tra quello che sostengono le banche, che sottolineano anche le sofferenze, 100 miliardi, le sofferenze in aumento, e le richieste delle imprese? No, ma quello che dice è chiaro, è inutile entrare nella polemica, diciamo, di chi ha più colpe o dov'è il problema, qui la situazione è complessiva. È evidente che la domanda di credito da parte delle imprese negli ultimi mesi ha riguardato prevalentemente il finanziamento di scorte e capitale circolante e la ristrutturazione del debito, quindi non i nuovi investimenti, che è esattamente, come dire, in linea con la dimensione di crisi che stiamo vivendo. E quindi gli attori in questo momento sono tre della questione, non solo due, cioè, qui non c'è solo un rapporto banca-impresa, c'è un rapporto banca-impresa e terza gamba politica economica che riguarda l'Europa e riguarda l'Italia. Se non si mettono in circolo dimensioni di politica economica cosiddette anticicliche, come di fatto ha fatto la Banca Europea con il governatore Draghi, abbassando il tasso di interesse, ma ricordo che noi però viviamo un paradosso italiano, perché mentre la Banca Europea abbassa il tasso di interesse subiamo per questioni paese non solo uno spread alto, e quindi viviamo una fase di politica monetaria restrittiva in un momento di crisi, evidentemente questa richiesta per investimenti sarà sempre meno. Quindi le banche di fatto hanno ragione, perché c'è una questione, come dire, di anticiclicità della politica economica che non arriva. Dall'altro lato dovrebbero, come dire, insieme, e questo è un elemento che sarà oggetto dei prossimi giorni di un tavolo che apriamo insieme ad ABI, confrontarci per capire quali strumenti possiamo pensare, immaginare per questa seconda fase, che è più difficile della prima, perché noi pensavamo di uscire dopo la moratoria che ha riguardato 220.000 imprese e ha sospeso 65 miliardi di euro di mutui nell'anno oggetto della cosiddetta moratoria a viso comune, di uscire da quella fase. In realtà oggi noi siamo di nuovo nel centro, come dire, di una dimensione economica negativa, e la cosa non depone bene per nessuno, però ci sono tante imprese che hanno i fondamentali a posto e che vivono una fase delicata di ristrutturazione altre, ed è queste che non vanno lasciate sole. Ecco, ma lei, adesso non voglio anticipare quello che sarà il vostro incontro con l'ABI, con le banche, ma che proposta avreste? Per esempio la moratoria, sia l'ABI che voi l'avete applaudita, insomma l'effetto l'ha avuto, lei ricordava 220.000 prestiti sospesi, congelati per un totale di 65 miliardi, state pensando a una moratoria 2? La moratoria 2 purtroppo non è possibile perché la Banca d'Italia ha dato parere negativo, perché significa mettere, diciamo, in sofferenza quei crediti. Quindi bisognerebbe pensare, diciamo, ad altri strumenti, e questa è un'ulteriore difficoltà, perché chiaramente la moratoria per chi l'ha usata non è riproponibile, anche se l'abbiamo prorogata di qualche anno di fatto, diciamo, dopo la prima moratoria. E quindi bisogna individuare, diciamo, alcune linee di finanziamento che le banche mettono a disposizione delle imprese a determinate condizioni, e poi si potrebbero definire dei prodotti integrati, cioè che consentano alle imprese contemporaneamente di accedere al credito e di beneficiare per esempio di alcune agevolazioni, come il nuovo fondo di garanzia che ha elevato il plafond dell'importo massimo garantibile, cioè fino a 2,5 milioni, oppure il fondo rotativo per le imprese della Cassa Deposito e Prestito, che potrebbe dare delle agevolazioni sui tassi di interesse. Insieme a questi, pensare, immaginare altri strumenti. Da un lato, noi come imprese dobbiamo cercare di proporre piani di ristrutturazione dove appunto sono oggetti momenti di calo di fatturato che siano credibili al sistema bancario. Dall'altro, il sistema bancario deve cominciare a guardare, diciamo, agli elementi intangibili e qualitativi dell'impresa e non solo quantitativi, perché noi ricordiamo sempre all'ABI che il quantitativo ti dà un'idea di quello che è accaduto fino a ieri, il qualitativo ti dà un'idea di quello che accade domani. Occorre, per fare questo, diciamo, un dialogo forte, non un conflitto, un confronto serrato su questi tavoli. Cercheremo di aprirlo, e certo abbiamo una delle fasi più difficili che il Paese sta vivendo, e sicuramente i dati non depongono bene su un'apertura, diciamo, di credito verso le imprese. Sì, lei giustamente ricordava come purtroppo, adesso non vorrei calcare la mano su questo, ma il temuto double dip, ossia l'andamento del ciclo economico che faceva una W, abbiamo molto ragionato nel 2009-2010, sarà una U, una forte caduta e poi una ripresa, sarà anzi una V, una U o la W. Purtroppo quello che si sta delineando per il 2012 è la W, cioè dopo un recupero nel 2010 e di nuovo rallentamento a fine 2011, è un segno meno in tutte le economie dell'area euro. Una cosa la voglio dire però, visto che le banche, mi sembra di essere stato comprensivo con le banche che hanno le loro ragioni, devono sistemarsi al loro interno, non possono fallire perché l'impatto sistemico sarebbe devastante, però oggi, notizia di questa mattina, i depositi che le banche europee mettono l'overnight, cioè notte su giorno, la notte, di liquidità dentro la Banca Centrale Europea hanno toccato un nuovo record sopra i 500 miliardi di euro, cioè ieri notte, l'altro ieri notte sono stati depositati dalle banche europee 500 miliardi che poi riprendono la mattina. Questo lo fanno perché è più comodo depositarli lì che non impiegarli, però non è accettabile, cioè se tu fai la banca, lo dico a livello europeo, questi 500 miliardi da qualche parte li devi impiegare, trova un modo, ma se no ottenerli dalla BCE, perché poi tu li rimetti alla BCE nottetempo, chiaramente è un gioco che è una partita di giro e non ha senso. Grazie Vincenzo Boccia, presidente della piccola industria di Confindustria. Grazie a lei, Rivella. Nel frattempo è arrivata una buona notizia per le banche italiane e speriamo anche per i correntisti. L'autorità bancaria europea, l'EBA, quella che aveva posto questi vincoli che citavo prima, molto penalizzanti per le banche italiane rispetto alle banche straniere e alle banche con retail rispetto alle banche d'affari, rivedrà a marzo la dimensione del buffer per i debiti sovrani, che ha penalizzato fortemente le nostre banche. Questo avverrà una volta che il fondo di salvataggio degli stati europei avrà raggiunto la piena capacità operativa. È già qualcosa. Piccinelli, mi sente? Ci sono, buonasera dottor Parigioni. È contento che l'EBA rivede i criteri? Oh, lei non... Meno male che qualcuno rivede qualcosa, ecco. qui siamo nel buio totale. Buono, un attimo, adesso veniamo all'indice Piccinelli, che è l'indice che abbiamo utilizzato purtroppo nel 2009-2010 per avere un indicatore molto artigianale, molto fatto in casa, di cosa stia vivendo il piccolissimo imprenditore. Lei ha 17 dipendenti, quanti ne ha? Siamo in 15 adesso. Esporta in 40 paesi, produce e commercializza accessori idraulici di presa per gruda camion ed escavatori idraulici. Cioè, insomma, lei rappresenta l'ideal tipo di decine di migliaia di piccolissimi imprenditori italiani. Dopo il traffico. Allora, sì, c'è chi scrive: invece di chiacchierare tanto va a fare il banchiere. Immagino che volessi dire il bancario, perché banchiere andrei a farlo subito. Il bancario che è il lavoro più difficile e più rischioso. E ripeto, così la chiudiamo, i bancari spesso, soprattutto se sono direttori di filiali, mettono in pratica gli ordini che ricevono, mettiamola così, non è colpa sua, anzi uno degli errori della banca universale è stato quello di immaginare che tutto si potesse decidere nel centro, quando è la periferia che è al posto delle cose. Ma andremo troppo in là. Allora, Paolo Piccinelli, imprenditore, titolare di Idrobenne, qualcuno se lo ricorderà perché lo chiamammo la prima volta il 18 giugno del 2009, e nel raccontare quello che stava capitando all'economia reale io poche volte ho avuto un'immagine così vivida. Riusciamo a far risentire quel passaggio in cui ci descriveva che tutto si era fermato? In Italia la crisi è arrivata più tardi, perché noi fino a dicembre 2008 abbiamo avuto il record di fatturato, e dal 1 gennaio invece sembra che qualcuno abbia spento un interruttore. Meno 80% di fatturato, telefoni spenti, fax muto e clienti, concorrenti, fornitori con gli occhi fuori dalla testa. Da gennaio abbiamo esaurito le commesse che avevamo pendenti col 2008 e poi esaurite quelle abbiamo fatto un po' di magazzino e adesso stiamo raschiando il fondo del barile. Ha messo i dipendenti in ferie? Ferie ne avevano poche, perché li ho sempre fatti ruotare, poi ci conosciamo, alcuni le ferie le paghiamo, altri rinunciano. Siamo passati alla cassa integrazione dai primi di aprile, a rotazione 5-6 persone, a maggio invece più della metà, e adesso sta suonando la sirena perché vanno a casa, ho qui 7 persone su 25 insomma. 7 su 25, cioè gli altri 18 sono in cassa integrazione? Sono in cassa integrazione e man mano mi servono, in base alle loro qualifiche li faccio venire. Ci parliamo, ci diamo del tu perché ci conosciamo, veniamo tutti da un piccolo paesino. L'azienda Presepio, Piccinelli, adesso vede cosa può fare, perché quelle due palanche che mi ha lasciato nostro padre le abbiamo reinvestite in azienda e stiamo cercando di salvare il salvabile. Però Piccinelli e suo fratello devono anche tutelare le proprie famiglie, quindi io temo che dovremo prendere delle decisioni molto spiacevoli. Fino all'ultimo cercheremo di arrabattarci in qualche modo, trovare nuove cose, cercare di... Però io ho la sensazione che stia cadendo dal decimo piano e continuiamo a dire finora tutto bene, finora tutto bene, finora tutto bene. Ecco, alla fine troveremo il marciapiede. In realtà, per dirla tutta, perché nella storia di questa piccolissima impresa c'è il paradigma di quello che è successo al mondo delle imprese italiane, non ha trovato lei il marciapiede Piccinelli, perché quando la rintervistammo a fine 2009, grazie all'aiuto dell'Associazione Industriale di Brescia, all'aiuto di una banca, le cose erano migliorate. Ecco perché mi interessa capire come è andato il 2011 e come va adesso. Allora, il 2011, ordinativi, fatturato e anche il rapporto con le banche, com'è andato? Allora, il 2011 complessivamente è stato un buon anno, sotto il profilo del fatturato, sotto il profilo degli ordinativi, sotto il profilo dei rapporti con le banche, grazie soprattutto al restyling di molti processi aziendali e delle linee di credito che abbiamo operato in questi tre anni. Ma le banche, visto che parlavamo di banche col presidente Boccia, le banche le ha trovate poi? Perché all'inizio era una... Le banche le ho trovate, anzi a dirla tutta, a inizi 2011 sono state alcune banche a venire a trovare lei, noi, che non è una minaccia. No, non per stanarci, ma perché i nostri bilanci erano tornati in ordine, come diceva prima il Boccia, la nostra azienda aveva i fondamentali sani come tante altre aziende, solo che il momento di difficoltà è stato improvviso ed acuto e quindi... ci serviva aiuto nel momento preciso della difficoltà. Adesso siamo riusciti a snellire l'azienda, a renderla più versatile, ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo fatto i nostri compiti a casa e abbiamo aumentato fatturato ed esportazioni che hanno superato il 50% del nostro fatturato. Perché voi già esportavate in 40 paesi, ma avete aumentato. A quel punto però nel 2011, fine 2010, le banche sono venute a trovarla, ma le hanno dato anche i soldi o sono solo venute a trovarla? Guardi, io parlo di due banche in particolare che sono quelle con cui abbiamo un rapporto privilegiato e sono Intesa San Paolo e Unicredit, che ci concedono ottime condizioni e con cui abbiamo un rapporto solido che dura da tempo. Le dico che a fine dicembre i direttori di filiali, insieme agli auguri alle aziende per il 2012, ci hanno comunicato che non hanno più soldi per nessuno. Ah, ecco. E che addirittura stanno facendo pressione su molte realtà meno positive della nostra affinché riducano le esposizioni. Cioè, non ho capito, lei fino a da fine dicembre 2010-2011 con le banche ha avuto un buon rapporto, cioè gli hanno prestati questi soldi oppure no? Ma sì, francamente dal 2009 alla fine del 2011 abbiamo anche smesso di aver bisogno di questi prestiti, perché siamo riusciti ad alleggerire la società, renderla più versatile. E avete licenziato? Abbiamo licenziato, no, abbiamo lasciato andare chi ci ha chiesto di andare, abbiamo perso tutti i lavoratori a noleggio, i vari Adecco, le varie cooperative, e al contrario nel 2011 abbiamo assunto due nuove figure. Ah, avete addirittura assunto, bene. E questo, quindi, cioè, la disponibilità del credito c'è stata nel 2010-2011, mi scusi se insisto. No, il credito c'è stata, quando ha smesso di piovere c'è andato l'ombrello, il problema è che adesso sta ricominciando a piovere e nel momento in cui l'ombrello ci serve ce lo stanno riprendendo. Cioè a lei gli hanno comunicato con gli auguri di Natale che il plafond era finito. Quali parole, per le famiglie abbiamo ancora qualche soldino, per le imprese non abbiamo più niente, abbiamo tutto plafonato, ordini dalle sedi centrali. E quindi lei non può più chiedere soldi in quest'anno 2012 a queste banche? No? A quanto pare fuori dai fidi e dalle linee di credito che abbiamo già siglato, purtroppo no. Il problema vero mio oggi è che ho sulla scrivania 100.000 euro di ordinativi siglati con conferma salvo benestare leasing, conferma salvo benestare finanziamento. E qui voglio smentire le banche che dicono che le piccole imprese non gli chiedono i soldi. Le piccole imprese chiedono i soldi, però evidentemente non offrono garanzie sufficienti ai loro occhi. E questo sta creando un effetto domino, un calo degli ordinativi, quindi calo dei soldi che girano e grossi problemi di insolvenze. Ma lei che cosa vorrebbe in questo momento? Cioè vorrebbe almeno la garanzia sugli ordinativi che ha già ricevuto? La crisi secondo me al momento è di fiducia. Il problema è che questo terrore delle difficoltà di accesso al credito scoraggia gli investimenti. Io a fine anno dovevo sistemare la linea di verniciatura, dovevo spendere alcuni soldi per migliorare degli impianti, ho preferito tenermeli sul conto. E a lei cos'è che farebbe tornare la fiducia? Farebbe tornare la fiducia innanzitutto un cambio di rotta a livello politico, che è poi quello che influenza tutto il resto. Oggi la politica non ci sta dando le risposte che tutti aspettiamo, perché non è aumentando il prezzo della benzina e il numero dei tassisti a Roma che si risolvono i problemi strutturali che sono incancreniti da decenni. Dobbiamo tappare il foro nel secchio, perché è inutile continuare a versarci acqua se questo secchio è un colabore. Ma mi dica una misura che vuol tanto ormai, visto che l'ho trasformato in un indice sull'andamento economico, lei può fare quello che vuole, Piccinelli, mi dica una misura che le è mancata da questo governo, ce ne saranno tante, ma me ne dica una. Cosa volevo? Io sono innamorato di quelle che chiamavamo le Tremonti, la defiscalizzazione degli utili investimenti. Che lo stesso Tremonti poi le volte potrebbe rilanciare la fiducia. E le liberalizzazioni invece non la eccitano? Le liberalizzazioni di cui sento parlare oggi assolutamente no. Assolutamente no, perché non si colpisce il cuore del problema. Il tassista che fa il mutuo per comprare la licenza e poi lavora 15 ore al giorno non è il colpevole della crisi in cui siamo. sono altri settori da liberalizzare, però purtroppo si va contro interessi che è meglio non toccare. Piccinelli, noi la risentiamo perché ciclicamente voglio monitorare l'andamento dell'indice Piccinelli e vediamo appunto se riesce a sbloccare questi ordinativi, se in qualche modo riesce ad ottenere il leasing. Chiarissimo quello che le hanno detto le banche, e secondo me questo vale molto di più tanti analisi e report. Il plafond l'abbiamo finito. In bocca al lupo a lei e ai suoi 15 dipendenti. La risentirò presto sperando di trovare una situazione migliore. Intanto chi scrive: il credito non è un diritto, ma ha ragione, però scusatemi, neanche depositare i soldi in banca è un dovere allora. Cioè, se la mettiamo così, il credito non è un diritto, ma la banca di lavoro dà, con una sana e prudente gestione, credito a chi glielo ritorna con un interesse. Se no, che sta a fare? Investe sui CDS le azioni, abbiate pazienza. E perché poi ha un regolamento particolare il mondo bancario, che non può fallire se non per il ruolo che svolge sul credito? Comunque, da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.